quello che ho subito in questi 80 giorni. 80 giorni. Corona non perdona. Sei chiaro, ci becca il paparazzo insieme nella limo e magari